palpitare, dicendo che nel tuo cuore sentivi tu quel pizzico. Mañana por la mañana mi brucia il cuore, non ce la può. Domani fino a domani si perde tempo a non dir di no. Mañana por la mañana non ci pensare da stento giù. Vedrai che all'indomani la stessa cosa mi cerchi tu. Il giorno che ti incontrai, d'incanto mi innamorai. Un pizzico nel mio cuore all'improvviso sbucciò l'amore. Ti volli perciò abbracciare e tu mi lasciasti fare, dicendo che nel tuo cuore sentivi tu quel pizzico. Mañana por la mañana brucia il cuore, non c'è l'amore. Domani fino a domani si perde tempo a non dir di no. Mañana por la mañana non ci pensare, ti aspetto giù. Vedrai che all'indomani la stessa cosa mi cerchi tu. Domani fino a domani si perde tempo a non dir di no. Mañana por la mañana non ci pensare, t'aspetto giù. Vedrai che all'indomani la stessa cosa mi cerchi tu.